Buongiorno a tutti, regà. Pure oggi stiamo qua. E che te lo dica a fa? Boh, me fa una pagnottella. Qua lanza la mortadella. No, meglio una partita a biliardino. Ma di chi? Sta a cominciare il cammino dei Gigi D'Agostino. Oh! Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Se volete scrivermi 333 64 67 662. Volevo dedicare Luce al mio amore Melissa. Luca da Bologna. Gigi D'Agostino, una musica infinita che racconta la vita. Se per te la, per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Te la prima volta, te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Se se per te la, per te la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Sulle mano. Isao, volume, a passo finiscino, chi c'è, Gigi D'Agostino. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. Capito come? Ovvio. Gigi, sabato scorso troppo spettacolo al Roncaccio. È vero, è vero. Ho 16 anni ed è la prima volta che ti vedevo. Paolo da Como. Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia. Questo sabato, 25 novembre 2006, Gigi D'Agostino suona in Liguria. Discoteca Disco Disco. Vado Ligure, Savona. Ciao maestro, sono Jimmy da Torino. Ogni volta che sento i tuoi lenti ho la pelle d'oca. Domenica le gare hai fatto godere. Cesa. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Appiccia sta radio, ti arriva in destro. Alle ore 18 suona il maestro. Arriva, arriva! Gigi D'Agostino! Ciao Gigi, sono Alex, da Enna. Vorrei dedicare una canzone molto martellante alla mia ragazza Fabiola. E questa è forte, molto, molto forte. Precisa, sì. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Giorgio De Chirico. Thank you. sempre fame, caro Gigi D'Agostino. Sei la fetta di salame del mio panino. Ma che? Ho sempre fame, caro Gigi. Sei la fetta di salame del mio panino. Ale e Fau da Roma, Prenestino. Un applauso al tuo cammino. Bella regà. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Gigi, a 47 anni suonati, mi emoziono sempre quando ascolto la tua musica. Sarò normale? Sì, sì. Massimo, da Santa Croce sull'Arno, Pisa. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Volete scrivermi? 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento, violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Mattia da Busto. Sabato mi hai fatto impazzire col lento violento. Mi fai sentire passo folk? Certo. Sono Stefano di Torino, sto studiando francese e purtroppo non ci sto capendo niente. Potresti mettere una musica che mi possa aiutare a studiare? Un saluto ai miei amici di Torre Canavese. Ciao. La situazione si fa bella, è suonata la campanella. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. ogni problema c'è un'opportunità. Galileo Galilei. Welcome, baby, I wanna meet you. Even though the other party wanna freak you, I heard that you wanna be my shorty. Come with me and yeah, let's go party. Though my age is cool time safe, but believe me, I can pop the link. When the world goes round and round, if you just the sound, get with me, come on, let's ride. She already know what's my name, Denise the cool guy. Glim bling chain on my neck. She feel me cause she know that I host right checks. Damn, I wanna show her love when other nigga beats her. I don't wanna trick her, love in my mission. Looking for my attention, I hate the ground. In the full town, I'm kinda sticky, but I'm going down, down. That's right. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Mando la pubblicità. Sali in sella, è suonata la campanella. Oh, ma sto pezzo. Il nostro solo strumento è un martello. Ogni problema assomiglierà a un chiodo da battere. Bill Gates. Gigi D'Agostino, le nouvelle martello. È bello. Fabrizio e Federico. Destinatario: nostro fratello. Messaggio: oggi è il tuo compleanno e non lo puoi festeggiare con noi perché sei dentro. Auguri fratè, ti vogliamo bene. Gli farò un'offerta che non può Maestro, sei l'ottava nota sul pentagramma. Sì. Giuseppe di Torino. Gigi D'Agostino, musical, mental.

Ciao Gigi, sorita, una bella brasileira. Ti ascolto tutti i giorni, grazie alla mia amica Ida, a cui dedico lo sbaglio. Mi spiace dover tornare a casa perché lì non ci sei. C'è sta su internet. La canzone del sogno è veramente da brividi. Massimo di Santa Croce sull'Arno. Saltato addosso a tutte le donne che mi si attribuisce aver avuto, non avrei avuto mai il tempo per andare a pescare. Clark Gable. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Why am I leading the lonely? Baby, don't you go. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Sono Mika da Catania. Pierro Manaccio, che dopo i 7 gol che ci hanno fatto domenica, lo aspetto sotto casa domani. Aiuto. Pure per me è stata una botta, amica. C'ho la vociaccia, ma so da Lazio. Sulle mano. È come se tutto fosse strano. Aria. Sulle mano. È come se tutto fosse strano. Aria. Sulle mano. Per Gigi D'Agostino. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mano. Per Gigi D'Agostino. Sì. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino. D'Agostino. Aria. Per Gigi D'Agostino. Sulle mano. Aria per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì, aria. Fermamosi un momento. Parte lento violento. E vi... Parte maestro, corteadro, erburattino. Gigi D'Agostino. Sono Serena di Ascoli Piceno. Volevo dire ad Antonio Gabrieli di Comunanza che lo amo tantissimo. Jessica, sei tutta la mia vita. Domenica alle gare è stato bellissimo. Con la musica del maestro e l'incontro del mio amore. Sei stupenda, grazie di esistere. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto e una stretta al cuore.

guarda invece noi. Ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Morale e in molti casi al 2% morale, al 48% indignazione e al 50% invidia. Vittorio De Sica. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Vorrei dedicare la canzone di Shakira, quella che inizia con la fisarmonica di qualche anno fa, alla mia mamma e dirle che per me è un esempio di vita. Sandro da Mottola, Taranto. D'Agostino, la musica ben detta. Pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un alguien así. Se me ha ido yo a ti, me ha ido yo. Stiamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino. auguri di buon compleanno a mamma Ivana, tuo figlio Luca. Sabato 25 novembre 2006 Gigi D'Agostino suona in Liguria. Discoteca Disco Disco. Vado Ligure. Savona. Camminatori, incamminati, uomini, donne, bambini e neonati, ascoltatori, sognatori, per oggi ci fermiamo, stringiamoci la mano. Grazie per aver scelto questo mondo, che esplora altri mondi e che crea un suo mondo fuori dal mondo. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.